3, che per intenderci è uno spazio occupato che fa riferimento alla storia dei centri sociali metropolitani, però è molto differente da questa esperienza per scelta e per collocazione territoriale. In quel territorio è un territorio a vocazione agricola e da lì abbiamo cominciato a ragionare sull'agricoltura insieme ad alcuni agricoltori. E alla fine l'abbiamo fatto su scala nazionale con vignaioli e piccoli agricoltori di tutta Italia. Semplicemente perché pensiamo che ragionare intorno all'agricoltura vuol dire ragionare su tante cose importanti, sul modo in cui si produce il cibo e le materie prime che vengono utilizzate, su come viene distribuito il cibo e su come viene consumato. A nostro avviso ci sono dei temi centrali per capire il mondo in cui viviamo. Lo dico così, sembra esagerato, ma per noi è importante fare dei ragionamenti in questo senso. Uno dei ragionamenti che abbiamo fatto è il lavoro in agricoltura. Il film di oggi vuole raccontare un po' questo, vuole aprire una traccia, un ragionamento intorno a che cosa vuol dire il lavoro in agricoltura. Io mi fermo qua, vi invito a rimanere alla fine perché ci saranno due dei ragazzi protagonisti del film, due braccianti di Rosarno, ci sarà un allevatore di capre dell'Alto Astigiano, ci sarà Dario Olivero della cascina Isola Maria, che è una cascina di Albairate ai confini con Milano, ci sarà cascina Caremma con Gabriele Corti e adesso mi sfugge il nome, un altro ragazzo che lavora in Caremma e porterà la sua testimonianza di lavoratore agricolo. Quindi vi lascio alla proiezione e poi ci facciamo due chiacchiere, due riflessioni alla fine. Grazie Paolo. Volevo avvisare il pubblico che noi abbiamo in questi giorni in programmazione, ed è una piccola sorpresa che mettiamo davanti a ogni film che presentiamo, un audio corto. È una sorpresa e spero vi piacerà, a noi fa pensare. Grazie, buona visione.